Welcome to DJ Lamb Shaker in the mix. con la corda d'oro. È un privilegio raro, raro. Rubò sei cervi nel parco del re, vendendoli per denaro, denaro. Un giorno, con una corda d'oro. Ricochet, you take your aim.